Storielle. Storiacce. Di Roberta Giordano. Vi pregherei, ascoltatrici e ascoltatori, di riservare una particolare attenzione a questa puntata, non perché le altre siano meno importanti, anzi no, sapete che qui ogni personaggio con la sua biografia, la sua storia, le sue passioni, le sue riflessioni, i suoi gusti, eccetera, è sempre, spero per voi, insomma, motivo di grande interesse. Ma questa volta potreste ricevere da questa puntata e dal personaggio che tra poco vi presenterò anche delle indicazioni molto utili per migliorare e aumentare una facoltà necessaria a tutti, diciamo, abbiamo più o meno tutti, chi più chi meno, ma potrebbe diventare molto molto più importante. Però intanto chiedo al mio personaggio di oggi, come sempre, di presentarsi, possibilmente attraverso tre aggettivi. I tre aggettivi sono memorabile, memorabile quello senz'altro, emozionante e sfogliabile. Sfogliabile, un po' come un libro. Come 261 libri. Come, guarda che dopo su questa cosa ti sfido sui 261 libri, perché Gianni Golfera, benvenuto qui Gianni. Grazie. A Storielle, è uno degli uomini con la maggior memoria al mondo, possiamo dire così, o in assoluto sei il più, cioè questo prima, non ti ho ancora trovato nel Guinness dei primati, o ci stai quasi entrando? Nel Guinness bisogna scrivere, seguire la procedura, chiamare il notaio, fare una serie di cose, quindi ci andremo sicuramente. Beh, io ti consiglierei, no, a questo punto. Sì, assolutamente. Con Gianni in realtà ci conosciamo già da tanti anni, proprio perché mi aveva colpito questa sua memoria prodigiosa e il fatto che fosse studiato a livello nazionale e internazionale, come un caso più unico che raro, proprio perché ha queste doti mnemoniche. Mnemonista, diciamo, è il termine giusto, Gianni. Esatto, sì. Tra l'altro, reduce Gianni Golfera da un esperimento alla NASA molto particolare, poi ci racconterai. Certo. Vedo i capelli un po' in piedi, effettivamente. Te ne hanno fatti un po' di tutti i colori, poi ci racconterà. Ma prima di tutto partiamo per un po' progressivamente dalle origini, no? Di come si siano sviluppate queste tue eccezionali doti. Intanto, tu sei nato a Lugo di Romagna. Sì, sono nato 31 anni fa a Lugo di Romagna, un paesino della Bassa Padana tra Ravenna e Bologna, ma in Romagna, non in Emilia. Ecco, i romagnoli sempre, gli emiliani no, i romagnoli ci tengono sempre a dire ma quella è Romagna, non Emilia. Mi spieghi perché? Perché c'è questa rivalità in base alla quale se chiedi da bere quando sei in Emilia ti danno dell'acqua e in Romagna ti danno del vino, c'è questa differenza. Senti, ma non so, gli emiliani sono mai rivoltati a questa leggenda? Perché dici che è vero, è vero. Dicono che sono migliori dei romagnoli, però confermano che danno dell'acqua da bere. Senti, la piadina è di uno o dell'altro? La piadina è di tutte e due, è fatta con uno stile diverso. Più si va verso la Romagna, più è sottile, più si va verso l'Emilia, più è spessa. E a te piace più spessa o più sottile? Più sottile. Tanto, inutile domanda retorica. Nel 1977, quindi giovanissimo, 31 anni, eppure con una vita molto intensa, proprio per questa, soprattutto questa qualità straordinaria. Sembra che il tutto iniziò quando a 12 anni un professore, che era un amico di famiglia, ti regalò un saggio rinascimentale di Giordano Bruno sulla memoria, proprio sulla capacità mnemonica, era questo? Esatto, strano a dirsi, era un regalo consolatorio, perché un giorno tornando da scuola ero disperato per via del fatto che non riuscivo a ricordare le poesie e i miei amici invece le ricordavano come se le stessero leggendo. Poi ho scoperto che in effetti le leggevano nella schiena del compagno davanti. e così nasce questo regalo, il De Umbris Idearum, un trattato sull'antica arte della memoria, che consisteva in un testo rinascimentale fatto dal filosofo nolano Giordano Bruno, che spiegava come memorizzare. C'erano un insieme di strategie prese dalla Grecia del V secolo a.C. fino ai suoi giorni, cioè alla 1582, data di pubblicazione del libro, che spiegavano proprio come apprendere più velocemente, più facilmente attraverso diverse strategie. E quindi a te già a 12 anni questa cosa ha fatto un certo effetto, nel senso anche positivo, cioè te lo sei studiato, te lo sei letto e hai capito e acquisito questo metodo già allora, oppure piano piano hai capito che poteva essere la tua strada quella di sviluppare queste capacità? L'una e l'altra, nel senso che quando ho letto il libro ho fatto un'entusiasmante scoperta per me, che è stata questa, e cioè che la memoria di ognuno poteva migliorare. Anche la mia scarsa memoria da allora avrebbe potuto migliorare con la ricetta giusta, e la ricetta era tra le mie mani, tant'è che ho fatto tradurre il testo da un latinista che mi ha aiutato a capire meglio ogni sua parte, perché la traduzione... E infatti questo mi chiedevo, per un bambino di 12 anni questo trattato di Giordano Bruno era adatto, cioè era comprensibile. Era impegnativo e non era tradotto in maniera straordinaria, per cui alcuni passaggi li ho fatti rivedere per cercare di capire. Per me è stato anche divertente perché il trattato spiegava come memorizzare e anziché leggerlo con curiosità io l'ho letto con il desiderio di applicare quello che c'era scritto e quando ho visto che davvero funzionava, cioè che in una lettura potevi imparare una poesia, un libro o il nome di una persona per esempio, ecco allora che mi sono appassionato e ho capito pian piano negli anni che quella sarebbe diventata la mia professione. Gianni Golfera, quindi tu sei debitore e a Giordano Bruno, con tanto personaggio, ma anche a questo professore che ti aveva regalato questo libro, no? Naturalmente, il professor Andrea Vitali, che insegna storia medievale, è stato in un certo senso il mentore che mi ha fatto scoprire l'arte della memoria. Quindi tu in realtà non è che sei nato, non è come quei bambini prodigio che so che già a 3-5 anni mostrano delle capacità per cui uno dice questo qui è geniale e bisogna sviluppare questa sua capacità. L'hai scoperto così? Purtroppo sono nato con una scarsa capacità di memorizzare, ricordare. Paradossalmente questo mi ha portato a una ricerca ancora più approfondita, un po' più o meno come una persona dislessica che si interessa di più alle ricerche e agli studi sul linguaggio. E la cosa più interessante, ovviamente, poi ritorneremo man mano sulla vita di Gianni Golfera, è che tu poi hai perfezionato man mano un tuo metodo personale, che è questo Gigotech dal tuo nome, no? Gianni Golfera Tecnica. Tecnica. Ultimamente ribattezzato con scarsa fantasia metodo Golfera. Che è più chiaro e lampante di così, non si sbaglia. Ma quindi ricordo male che c'era il nonno e anche il papà che avevano delle qualità mnemoniche. Il nonno e il papà avevano delle possibilità di ricordare superiori perché inconsciamente usavano dei metodi. Mi ricordo una volta mio padre che faceva calcoli a mente in maniera molto veloce. Poi mi sono interessato tra l'altro anche del calcolo mentale, a Natale uscirà un libro sull'argomento, e al quale una volta chiesi ma come fai a calcolare così velocemente? E lui mi rispose ma semplicemente come tu a scuola con la lavagna. Però non usava nessuna lavagna, allora mi ha detto che immaginava la lavagna e immaginava di fare i conti alla lavagna. Era una sorta di lavagna mentale. Questo per dirti che alla base c'è la capacità di visualizzare, quindi la capacità di visualizzazione insieme al coinvolgimento emotivo sono la base indispensabile per usare bene la memoria. Non a caso mio padre e mio nonno hanno usato la memoria in particolare per quella che era la loro professione, che per un po' è stata anche la mia, cioè pilota di aereo professionista. E mio padre volava senza carta geografica, facendo tutto a memoria, mio nonno anche. Questo per una passione che loro avevano e per una serie di metodi che si erano sviluppati quasi familiarmente, trasmettendolo da padre a figlio come un mestiere qualsiasi. Storielle. Storiacce. Roberta Giordano, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è sempre qui naturalmente a Storielle in compagnia di un uomo prodigio. Lo raccontavamo prima, è Gianni Golfera, uno dei più grandi mnemonisti al mondo a livello internazionale, cioè ha una capacità mnemonica prodigiosa, una grandissima memoria. Ci stava raccontando un po' del suo metodo, di come Gianni è nata questa cosa, no? Con il regalo da parte di un professore quando aveva 12 anni, di un amico di famiglia, insomma di un libro che doveva essere un regalo consolatorio di Giordano Bruno, dal quale poi tu hai avuto l'illuminazione e l'ispirazione per seguire quella che è stata la strada della tua vita, cioè sviluppare sempre di più le capacità legate alla memoria e all'apprendimento e farne poi un metodo tuo che abbiamo detto che si chiama Gigotech, o più recentemente, insomma, per essere più chiari, il metodo Golfera, Gianni Golfera. Ti vorrei chiedere, prima di tornare al metodo e di tornare anche a questa tua esperienza che hai fatto molto recentemente alla NASA, no? Il ricordo più bello che hai della tua infanzia, a proposito di ricordi, qual è? Il ricordo più bello è sicuramente il primo volo, perché quando avevo 8 mesi ho fatto il primo volo. Sì, ho fatto il primo volo in aereo e ricordo che ero dietro, che ero sulle ginocchia. A 8 mesi ti ricordi? Che... Sì, è il mio primo ricordo, però è l'unico di quell'età. Di quell'età, beh insomma, mi sembra già molto. È interessante perché mi ha permesso di intuire in seguito che quello che porta i ricordi nella cosiddetta memoria a lungo termine, cioè ricordare per sempre, è l'emozione che quel ricordo ti ha portato. Quindi, essendo il volo emozionante, mi è rimasto... Certo. bene in mente il ricordo, così come il primo bacio non si scorda mai, la nascita. Tu te lo ricordi quindi il primo bacio? Certo che me lo ricordo. Non diciamo a chi, perché Gianni Golfera è sposato, ha due bambini e sei tra l'altro, dicevo, anche pilota acrobatico tu, pilota d'aerei, quindi hai fatto della memoria il tuo mestiere, perché sei uno tra l'altro dei, come si chiama, memory trainer? Esatto, ecco. Esatto, sì, faccio il memory trainer, cioè insegno alle persone come ricordare sia nella vita professionale sia nella vita. Beh, tutti ne abbiamo bisogno, sì, no? Sì, ma sì. Di ricordare. Quindi pilota acrobatico, anche questa cosa nella tua vita come l'hai inserita, questa passione, questa, perché dicevi il nonno e il papà piloti, da questo che ti è venuto quindi la passione. Sì, naturalmente il volo è una sorta di vocazione, nel senso che si vola per passione, se non c'è una vera passione la maggior parte delle persone smettono. Diciamo che neanche sono spinte a farlo, insomma, visto che più quasi una paura della gran parte che non una passione, quella del volo, no? Tu pensa che quando io andavo all'asilo durante il periodo estivo, anche quando andavo a scuola ero molto piccolo, i miei genitori lavoravano, mio padre faceva il pilota, era sempre via, spesso all'estero, e mia madre aveva un negozio. Mio nonno faceva l'istruttore di volo. Nonno paterno. Sì, a Lugo, all'aeroporto di Lugo. Lugo di Romagna, dove sei nato. E io venivo messo nei sedili dietro e facevo tutto il giorno in volo con tutti gli allievi. Quindi praticamente ce l'hai nel sangue, insomma. Sì, la paura ti è passata subito, perché era come, quasi come camminare o andare dietro in bicicletta. Mi addormentavo subito, diceva mio nonno. E quindi sono cresciuto in quell'ambiente, ovvio che questo mi ha portato a sviluppare una certa passione per il volo. I piloti generalmente si dividono in due categorie, cioè gli acrobati e i navigatori. I navigatori sono quelli che vanno in giro con una borsa pesante e vogliono cercare di arrivare più lontano possibile facendo il volo più bello possibile. E invece l'acrobata è quello che svolazza sempre sopra casa sua, però con delle evoluzioni fantastiche. Con delle evoluzioni fantastiche, insomma. Questo è lo spirito con cui ho affrontato la cosa, perché poteva permettermi di esprimere una certa fantasia, un certo estro creativo. Senti, tra l'estro creativo e la memoria e le capacità mnemoniche c'è un legame stretto? C'è un legame molto stretto, perché la creatività è alla base del processo di apprendimento, che deve essere visto non più come uno sforzo nella ripetizione, ma come un atto creativo ogni volta che si acquisisce un'informazione. Quindi personalizzare l'informazione e acquisirla a seconda della propria storia, del proprio modo di essere, anche di quello per cui ti servirà. Naturalmente, un po' come dire che chi vuole ricordare Gianni Golfera può pensare a una mongolfiera se è appassionato di volo, a una golf se gli piacciono le auto, a una mazza da golf se gli piace lo sport. Quindi ognuno interpreterà e tradurrà questo giusto nome in un'immagine visiva che gli aiuta ad acquisire l'informazione. Poi naturalmente quando diranno golfera l'immagine scomparirà e rimarrà il ricordo nella memoria a lungo termine. Perché tu ci spiegavi prima che in questo tuo metodo golfera, le due basi, gli elementi più importanti, insomma, per aumentare la capacità di apprendimento e la memoria sono la visualizzazione, quindi anche se un'immagine non la vedi, un concetto, ma visualizzarlo, e l'emozione. Sono queste due cose che ti stampano nella memoria i ricordi. Naturalmente, visualizzare è la base ed è anche molto naturale, perché se chiedo ai nostri ascoltatori di pensare a una persona cara, immediatamente pensano l'immagine della persona cara e non la voce o la stretta di mano. Successivamente a questo coinvolgimento emotivo, perché si è pensato alla persona cara, si ricorda di più. Diciamo che la nostra amigdala, che è la struttura che porta i ricordi nella memoria a lungo termine, cioè li deposita nell'ippocampo, è da immaginare, io faccio sempre questo esempio sia i bambini sia i più grandi, come una sorta di segretaria un po' pettegola che trasmette le informazioni a un vecchio libraio, l'ippocampo, ma solo se queste sono di interesse importante per lei, cioè sono emozionanti. Quindi per ricordare una cosa noiosa io suggerisco sempre di trasformare questa cosa noiosa in una divertente. Ci vuole una bella creatività in questo. Sì. Ma dicevamo prima che gli studiosi, i ricercatori che ti hanno preso in esame, tu sei un oggetto di studio, hanno verificato che non c'è quindi in te una base genetica. Questa è la cosa interessante. Quindi vuol dire che è una possibilità di tutti. Ma in te che cosa ha fatto la differenza? A parte la scoperta di questo testo di Giordano Bruno e quello che ne è seguito. La differenza, secondo la ricerca, la fa la metodologia usata per apprendere. Questo implica che, a differenza di quello che fa una persona qualsiasi presa dall'elenco telefonico, possibilmente che non abbia letto i miei libri. la differenza è che ne hai scritti molti, no, di libri? Qualcuno, l'ultimo? Sì. L'ultimo si chiama Più memoria, edito da NLP Italy, ed è un testo di stampo molto manualistico. Diciamo, la differenza è che quando io mi approccio alla lettura del testo col desiderio di memorizzarlo, uso un metodo ben preciso per acquisire queste informazioni. Uso la memoria visiva, uso la memoria spazio-temporale, tutti questi tipi di memoria che solitamente la persona in generale non usa per memorizzare, io le finalizzo alla memorizzazione. La cosa interessante è che nel momento in cui io insegno come fare, questa ricetta viene perfettamente trasmessa, tant'è che le persone che sono state con me e hanno imparato come fare poi hanno ridotto di moltissimo il tempo necessario per apprendere nuove informazioni. Ma questo esperimento invece, tu sei reduce, dicevamo prima, dalla NASA a Cape Canaveral in Florida, negli Stati Uniti. Che cosa ti hanno fatto? Dei test, diciamo, in assenza di gravità? Hai fatto dei giri vorticosi? Lo stomaco intanto è tutto a posto. Sì, è tutto, ecco, a posto oggi. Cosa, che ti hanno fatto? Che ti hanno combinato? Allora, tanto la finalità dell'esperimento era quello di unire un gruppo di ricercatori nell'ambito scientifico per scoprire quali erano le potenzialità della mente in assenza di gravità. Zero G Memory si chiamava. Zero G Memory si chiamava il progetto, e si chiama ancora perché ancora stiamo analizzando i risultati. Tutto è iniziato circa 4 anni fa, quando un medico che collaborava con l'Istituto Superiore di Sanità mi ha chiesto di collaborare in questo tipo di ricerca. Io poi ho coinvolto alcuni ricercatori che sono altresì interessati allo studio delle possibilità della mente, come Alessio Roberti per la ricerca sulla PNL, e tutti insieme siamo andati a testare questa capacità di apprendere. Che poi, scusami, la cosa particolare è che l'obiettivo di questo esperimento era soprattutto quello di addestrare i piloti in situazioni di grave tensione, quindi cercare di evitare incidenti aerei aerospaziali, no? Assolutamente sì. Questa cosa. Io ho voluto adattare la mia professione presente a quella passata di pilota e trovare un punto di incontro. Il punto di incontro è questo: nei casi di emergenza a bordo, come ad esempio l'incendio di un motore oppure una avaria di qualsiasi genere natura, si utilizzano quelli che si chiamano in gergo aeronautico e anche lo spaziale memory item, cioè un insieme di cose da ricordare in sequenza. Gli studi sullo human factor, cioè il fattore umano e la sua possibilità di influenzare l'esito di un'avaria, hanno dimostrato che in condizioni di forte stress, di emergenze, di assenza di gravità, abbiamo difficoltà a concentrazione. Credo proprio di sì, cioè, con situazioni meno tese, no? Sì, sì. Allora cosa succede? Che il nostro cervello sotto stress produce cortisolo, che è una sostanza neurotossica, e riusciamo purtroppo a dimenticare intere sequenze di informazioni. Che ci sarebbero utili frame, in quella situazione. Ci sarebbero situazione. Indispensabili per sopravvivere. Quindi cosa succede? Che il pilota non fa quasi mai quello che dovrebbe fare in quella situazione. Il risultato è che l'incidente è quasi sempre, purtroppo, inevitabile. Se invece ci fosse la capacità di ricordare nella perfetta sequenza le informazioni necessarie, cioè i memory item, le procedure di emergenza, ecco, allora avremo una sicurezza perfetta, avremo una macchina che guida una macchina. Questo è l'obiettivo. Però l'aspetto emotivo, quello che ti fa perdere la razionalità, si riesce comunque a superare in questo modo? Poi. L'aspetto emotivo si può migliorare molto, non so se si possa superare del tutto, anche perché la ricerca sta andando avanti. Io ti dico qual era l'obiettivo e qual è stato il risultato, che non è stato esattamente come l'obiettivo voleva, però è stato incoraggiante. Ma Gianni Golferra, tu dicevamo sei sposato, quindi tua moglie non avrà mai da lamentarsi quando si fa raccomandazioni. Ricordati di andare a prendere i bambini, la spesa, il gas, le chiavi, l'anniversario tu non te lo puoi mai dimenticare. Non me ovviamente. Lo posso mai dimenticare, ma sono terrorizzato all'idea di farlo. Anche perché non avrei scuse, quindi... Gianni, invece per te stesso, vedi qua ho la lampada, in chiusura la lampada di Aladino, cioè il genio qua dentro, non so, il genio avrà una memoria prodigiosa, credo di sì, e si ricorderà quello che tu in questo momento gli chiederai. Che cosa desidereresti? Cosa gli chiederesti? Gli chiederei... questa è una domanda difficile. Di solito si iniziava dicendo di avere altri 100 desideri. Che magari non ricorderai tutti, sì. Anche se la memoria non ti fa mai difetto, che cosa... Chiedo al genio che sarebbe bello se ogni persona fosse consapevole delle possibilità molto più grandi di quelle che pensa di avere, e se questo sistema, in cui credo moltissimo, avesse la massima divulgazione possibile. Cioè, mi piacerebbe regalare a tutti un manuale su come usare meglio il primo di tutti i computer, cioè il nostro cervello. Quindi io mi auguro che questo desiderio si avveri, anche perché sarebbe a beneficio nostro, no? Se le nostre capacità effettivamente cerebrali si ampliassero, si amplificassero. Grazie Gianni Golfera. Grazie a voi. Ciao Gianni. Ciao. Vedi che in nuce i semi quantomeno c'erano. Però adesso ci fermiamo brevissimamente, ritorniamo tra poco con Gianni Golfera. Quindi, a proposito di memoria, ricordatevi tra pochi istanti di essere qua.